Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Invito tutti i commentatori a levarsi dalla testa il tema scissione. Per quel che riguarda me, portarmi fuori da casa mia ci può riuscire, cioè dal mio partito, ci può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito. Con meno non succede. Addirittura, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, qui dice Bersani, se mi vogliono tirare fuori dal PD ci vuole l'esercito. Poi c'è stata la pronta risposta della ministra Pinotti, che sentirete poi più tardi. Insomma, va avanti continuamente questo dibattito, questo confronto, scontro sul referendum, anche molto all'interno del PD, ne abbiamo parlato anche ieri, è stata la direzione nazionale del Partito Democratico. Sarà uno dei temi di questa sera, fra l'altro c'è il costituzionalista Onida, che anche lui ha presentato ricorso contro il quesito referendario, quindi si accende sempre più questa tensione sul referendum. Poi naturalmente altri temi. Voi sapete che per intervenire qui a Effetto Notte ci sono due canali privilegiati per voi, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp ed SMS da inviare al 349-238-6666, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Fra l'altro Padoan ha appena parlato, il ministro dell'economia ha di nuovo in Parlamento per chiarire insomma questo scontro sulla crescita del PIL, e ha confermato che ci sarà una crescita nel 2017 economica in Italia del più 1%. Anche di questo capiremo perché c'è questo scontro con l'ufficio di bilancio parlamentare. Intanto però, come sempre, il riassunto della giornata. Il terremoto che ha colpito il centro Italia, ha approvato il decreto legge, subito 300 milioni per la ricostruzione, poi 4 miliardi e mezzo tra le misure e il risarcimento integrale per le case colpite. Referendum, il giorno dopo la direzione PD, Bersani smentisce ogni ipotesi di scissione, solo l'esercito può riuscire a cacciarmi, dice, la minoranza frena sulla scissione e il costituzionalista Onida impugna il referendum. Crescita, il ministro dell'economia Padoan in audizione in Parlamento sulla nota al DEF torna a confermare le stime per il PIL, più 1% nel 2017. Siria, ancora bombardamenti sul martoriato paese, in 5 tra bambini e adolescenti sono rimasti uccisi in una scuola a Dara, e Putin, dopo le critiche della Francia sulla mancata tregua, ha annullato la visita a Parigi. Presidenziale americane, Donald Trump scatenato cavalca il caos nel suo partito e dice niente più manette, ora faccio a modo mio. Hillary in testa, i sondaggi avverte, io sono l'ultima cosa tra voi e l'apocalisse. La giornata internazionale delle bambine, tra violenze sessuali, mutilazioni genitali, matrimoni forzati, gravidanze precoci sono le ultime tra gli ultimi. L'ennesimo femminicidio, questa volta a Torino, un uomo litiga con la moglie, la uccide picchiandola e poi va al bar a bere una birra. Brexit, Londra rassicura gli studenti dell'Unione Europea, le agevolazioni restano. Maternità surrogata, il Consiglio d'Europa la boccia, non passa il primo rapporto votato dall'Assemblea parlamentare. Fiera Milano, allarme infiltrazioni, commissariata parte della società. E per il calcio, Paolo Maldini ha rifiutato l'offerta dei cinesi per il Milan. I miei valori, dice, sono più importanti di un impiego. Partiamo quindi dal Presidente del Consiglio Renzi, oggi impegnato su più fronti. Era in giornata nelle Marche, nei luoghi colpiti dal sisma dello scorso agosto, ad annunciare i fondi che saranno stanziati per il post-terremoto, e poi tra poco sarà a Politics su Rai 3. Cercheremo di seguirlo in parte, però ci racconta dei suoi interventi su questi differenti fronti il nostro Vincenzo Miglietta, in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Quindi dicevo, è stato approvato il decreto legge sul terremoto. Renzi ha detto, avevo promesso, non vi lasceremo soli. È così. Quindi giornata che è partita proprio con il Consiglio dei Ministri di primo mattino, che ha varato questo decreto, lo ricordavi da studio Roberta, 300 milioni per completare l'emergenza e poi 4,5 miliardi in totale per aiutare a ricostruire e far tornare alla normalità le zone colpite dal sisma, tra le misure il risarcimento integrale per le case colpite, prestito d'onore per il riavvio delle attività, cassa integrazione in deroga per quanto riguarda le case colpite, bene ricordarlo, non solo le prime case ma anche le seconde case, perché lo stesso Presidente del Consiglio Renzi ha ricordato, sono zone queste dell'Italia centrale dove si vive anche di turismo, di seconde case, quindi è bene aiutare anche questa tipologia di proprietari. Il giro del Presidente del Consiglio Renzi oggi è iniziato però nelle Marche, nella visita anche a Della Valle, alla fabbrica delle TODS. Qual è il nesso con il sisma? Perché Della Valle poi costruirà una fabbrica al paese di Arquata del Tronto, che sappiamo essere stato tra i più colpiti. Per cui giornata dedicata al sisma, e tra breve l'intervento invece di Renzi su Rai 3, immagino che parlerà non solo di sisma ma soprattutto del referendum. A tutto capo, soprattutto sul referendum. Grazie Vincenzo Miglietta, ciao Vincenzo. Grazie. Buon lavoro. La politica, restiamo sulla politica. Dopo la direzione di ieri del PD, continua il dibattito appunto interno al partito sul referendum, sulle eventuali modifiche all'Italicum con Pierluigi Bersani, che insieme un po' a tutta la minoranza frena comunque sulla scissione. Invito tutti i commentatori a levarsi dalla testa il tema scissione. Per quel che riguarda me, portarmi fuori da casa mia si può riuscire, cioè dal mio partito, si può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito. Con meno non succede. Tra poco quindi torneremo a parlarne, anche perché il confronto scontro, vi dicevo, è sempre più acceso, e con una novità, appunto l'ex presidente della Consulta Unida che ha fatto ricorso contro, nell'altar del Lazio, al Tribunale Civile di Milano, contro il quesito. Dice: in un'unica domanda sono sottoposti all'elettore una pluralità di oggetti eterogenei. C'è poi la politica economica. Vi annunciavo che il governo conferma le stime di crescita per il prossimo anno, fissando l'asticella del PIL a più 1% nel 2017. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Padoan in audizione in Parlamento sulla nota al DEF, il documento di economia e finanza. Spostiamoci sulle notizie dall'estero. Siria, ancora bombardamenti sul martoriato paese in 5 tra bambini e adolescenti sono rimasti uccisi in una scuola a Dara. E il presidente russo Putin, dopo le critiche della Francia sulla mancata tregua, ha annullato la visita a Parigi prevista per il prossimo 19 ottobre. Le presidenziali americane. Siamo ormai agli sgoccioli. Donald Trump scatenato cavalca il caos nel suo partito, che sapete in qualche modo cerca anche di a tratti di scaricarlo. Dice: niente più manette, ora faccio a modo mio. Intanto Hillary Clinton è in testa, anche se si riduce un pochino il vantaggio negli ultimi sondaggi, e avverte gli americani, dice: io sono l'ultima cosa tra voi e l'apocalisse. Lo dice in un lungo articolo del New York Times. E oggi è la giornata internazionale delle bambine. Tra violenze sessuali, mutilazioni genitali, matrimoni forzati, gravidanze precoci sono le ultime. Tra gli ultimi, ogni 7 secondi nel mondo una ragazzina minore di 15 anni viene costretta a sposarsi. Ogni 7 secondi. Ogni anno nel mondo ci sono 5 milioni di spose bambine, 70.000 ogni anno muoiono di parto. I dati terribili sono stati diffusi dall'ONU insieme a UNICEF, a Save the Children, nella giornata appunto a loro dedicata. Un fenomeno, questo delle spose bambine, presente però anche in alcune zone d'Italia, come Radio 24 è in grado di raccontare. Non solo nell'Afghanistan dei talebani o nel lontano Yemen, succede anche nella Calabria dei nostri giorni, di spose bambine promesse a uomini più grandi per siglare patti di 'ndrangheta. Così nella Locride una 13enne è stata costretta al fidanzamento col rampollo dei commisso clan della zona, anche se lei non vorrebbe, anche se, come ricostruisce un'inchiesta di Storiacce, lei aveva simpatie per un coetaneo, ma alla fine sotto le pressioni della mamma cede, con la consapevolezza che di lì a poco avrebbe dovuto anche lasciare la scuola, perché questo prevede il codice, e questo confermano i dati del Ministero dell'Istruzione. Nel 2015 930 alunni in Calabria hanno abbandonato le aule, una realtà che Don Emanuele Maggioni provò a denunciare. Le alleanze sono fatte dei grandi, questi bambini dopo 13 o 14 anni non vanno più a scuola perché c'è già questo impegno. Così in terra di 'ndrangheta la speranza delle spose bambine sta soprattutto nella ribellione di mamme come Giusy Pesce, che a 13 anni aveva già partorito il suo primo figlio, come ricorda l'ex PM di Reggio Calabria Alessandra Cerreti. Per assicurare ai propri figli, che altrimenti avrebbero avuto un destino segnato, un futuro di libertà. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi torneremo su questi dati terribili. Parliamo di maternità surrogata, perché il primo controverso rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla maternità surrogata è stato bocciato con 83 no, 77 sì e 7 astenuti. Per essere approvato, questo rapporto, che conteneva alcune timide aperture sulla maternità surrogata, avrebbe dovuto raccogliere il sostegno dei 2/3 dei votanti. Brexit, gli studenti dell'Unione Europea che faranno domanda per frequentare le università britanniche nell'anno accademico 2017-2018 avranno accesso a prestiti universitari, borse di studio per tutta la durata del corso. L'ha annunciato oggi il governo britannico dopo le polemiche dei mesi scorsi sulla possibilità che la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, potesse mettere fine alle agevolazioni per gli studenti europei. Non sarà così. Ancora all'estero, la Francia spezza un tabù. È stata inaugurata oggi a Parigi la prima narcosala del paese, la cosiddetta shooting room, la stanza del buco per il consumo controllato di droga, un'iniziativa già testata in una decina di nazioni europee, dalla Svizzera all'Olanda, alla Norvegia, alla Spagna. Il centro di 450 metri quadri adiacente all'ospedale Riboisière nel nord di Parigi, un quartiere particolarmente frequentato da tossicodipendenti, è stata inaugurata dopo anni di polemiche e rinvii alla presenza della sindaca Anne Hidalgo e del ministro della Salute Marisol Touré. Questa storia adesso delle scacchistiche iraniane che si schierano contro la campionessa americana che non vuole indossare il velo rinunciando al mondiale. Quando la Federazione Mondiale ha designato Teheran come sede dei prossimi mondiali, Mitra Jazipur è saltata sulla sedia. Mitra gioca a scacchi da quando ha 6 anni e la prossima primavera, nel più grande evento sportivo femminile mai ospitato in Iran, si giocherà il mondiale in casa propria. Ma gli entusiasmi per l'assegnazione si sono presto trasformati in polemica per la decisione della campionessa americana Nazi Panikiz di rinunciare alla manifestazione in protesta contro l'obbligo per le partecipanti di indossare l'hijab, il velo islamico. Una presa di posizione che ha trovato l'appoggio di altre colleghe, ma non quelle di Mitra e delle scacchiste iraniane, che considerano il boicottaggio un errore perché danneggia il processo di emancipazione femminile nel paese. Questi giochi sono importanti per le donne iraniane perché sono una grande opportunità per mostrare la nostra forza, ha detto Mitra. Andrea Sieravo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, il Tribunale di Torino ha condannato a 6 anni Salvatore Ligresti e a 5 anni e 8 mesi la figlia Lionella nel processo torinese in cui erano accusati di falso in bilancio e aggiotaggio informativo. Condannati anche l'ex revisore di Fondiaria SAI Riccardo Ottaviani e l'amministratore delegato di Fonsai Fausto Marchionni. Assolti invece Antonio Talarico, ex vicepresidente della compagnia, e l'ex revisore Ambrogio Virgilio. E la cronaca anche con l'ennesimo femminicidio, una lista, lo sapete, senza fine. Questa volta è successo a Torino, un uomo ha litigato con la moglie, l'ha uccisa picchiandola e poi è andato al bar a bere una birra. A dare l'allarme è stato l'uomo stesso che aveva detto di aver trovato la donna priva di vita rincasando, ma nell'abitazione non c'erano tracce di colluttazione né di intrusione. In mattinata poi la confessione. Parliamo di Fiera Milano, amministrazione giudiziaria per parte della Fiera di Milano S.p.A. Un settore della società, quello riguardante gli allestimenti di stand fieristici, è stato messo in amministrazione giudiziaria dal Tribunale per effetto dell'inchiesta dell'antimafia che già lo scorso luglio aveva portato all'arresto di 11 persone, imprenditori e pure un avvocato siciliano. Si trattava dell'indagine che aveva ricostruito l'ombra delle infiltrazioni mafiose nella realizzazione di alcuni padiglioni Expo, tra cui quelli di Francia e Qatar. E c'è ancora una notizia che riguarda la vicenda della nave Concordia. L'ex comandante della nave Costa Concordia, Francesco Schettino, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la condanna a 16 anni di reclusione e un mese di arresto inflittagli dalla Corte di Appello di Firenze il 31 maggio scorso per il naufragio dell'isola del Giglio che ebbe come conseguenza 32 morti oltre a numerosi feriti, traumatizzati e danni materiali ingenti. Quindi ha chiesto che venga annullata la sentenza. Unione Civili, la sindaca di Oderzo, vicino Treviso, sindaca leghista Maria Scardellato, eletta a giugno nelle file del Carroccio, ha firmato un'unione civile tra due uomini che erano compagni da 11 anni, rischia adesso l'epurazione dal partito. Lascia poche vie d'uscita alla sindaca Matteo Salvini, che dice: se la sindaca scientemente si è prestata a questo giochino, sicuramente ha poco a che fare con la Lega. Parliamo di birra adesso. Resta tricolore la produzione, ma la proprietà della birra Peroni da oggi è giapponese. Nata 170 anni fa a Vigevano, la birra Peroni passa in mani straniere già nel 2003, quando la famiglia vende la maggioranza alla multinazionale Sab Miller. Ora il marchio italiano, da 360 milioni di ricavi l'anno, finisce ai giapponesi di Asahi, un'operazione nota da tempo, visto che Sab Miller è stata costretta a vendere, per motivi di antitrust, dopo la maxifusione con AB InBev, annunciata un anno fa e diventata operativa in questi giorni. Un deal da 100 milioni miliardi di dollari che unisce due giganti mondiali della birra con marchi come Nastro Azzurro, Beck's, Bud, Corona e Stella Artois. Peroni rassicura gli oltre 760 dipendenti. Le attività restano in Italia, ci spiega Federico Sannella, direttore relazioni esterne. Lo stabilimento di Padova, lo stabilimento di Roma, lo stabilimento di Bari, nonché la nostra malteria Saplo a Pomezia, rimangono assolutamente parte integrante, anzi motore di crescita e di produzione per i nostri marchi all'estero. Immutato quindi anche l'organigramma. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, Olimpiadi, tramonto ufficiale oggi per Roma 2024. Il CONI ora candida Milano, ma per ospitare la sessione del 2019 del Comitato Internazionale Olimpico. E poi per il calcio, rottura definitiva tra la nuova proprietà cinese del Milan e una delle più grandi bandiere della storia rossonera, Paolo Maldini, che rifiuta il ruolo di direttore tecnico dei rossoneri, proposto appunto dai cinesi, lo annuncia su Facebook. Spiegando di non aver mai chiesto un ruolo alla Galliani e parlando di sogno svanito, dice: avrei dovuto condividere qualsiasi progetto, acquisto o cessione di calciatore con il mio pari grado, ha scritto, e questo insomma non era nelle sue intenzioni e nelle sue ambizioni. Con questa notizia quindi si chiude il riassunto della giornata. Tra poco, dopo la viabilità, cominciamo a approfondire alcuni temi, in particolare voi anche con le vostre osservazioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666. Per esempio Annalisa dice: Bersani dovrebbe andare in pensione, preferisco pagargli l'INPS che sentirlo. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi, Roberta Giordano, e qui a Effetto Notte vedo intanto che compare il volto di Renzi a Politics. Su Rai 3 tra poco cominceremo a sentirlo, Presidente del Consiglio, segretario del PD. Ieri c'è stata la direzione del Partito Democratico e continua, vi dicevo, questo dibattito accesissimo all'interno del partito tra maggioranza e minoranza, con Bersani che ha detto, l'avete sentito, ci vuole l'esercito per cacciarmi, quindi frenando un po' sull'eventuale scissione di cui si era ancora ventilato ieri. In realtà sentiamo subito le prime parole di Renzi, appena iniziato a parlare. E prima ancora eravamo stati nelle Marche, dove sta raccontando la giornata di oggi, Valle ha scelto di nei luoghi terremotati annunciare oggi l'apertura di una fabbrica nel comune di Arquata, un segno molto bello che spero sia seguito da altri imprenditori. La situazione è molto dura, è inutile fare giri di parole, grandi discorsi, ci vorranno molti mesi per ci vorrà qualche anno, non molti mesi, per sistemare tutto. Però ho visto delle comunità forti e devo dire che la cosa bella è ho trovato un paese unito, cioè non c'è divisione politica, non c'è divisione religiosa, non c'è divisione culturale. Sul terremoto stiamo lavorando tutti insieme, tutti nella stessa direzione. Oggi il governo ha fatto il decreto legge, spero che sia approvato all'unanimità anche dalle opposizioni. Sul tema della ricostruzione a regola d'arte, con l'ANAC che fa i controlli, non si scherza, si lavora tutti nella stessa direzione. Avete stanziato 300 milioni. Ecco, ma questo per quanto riguarda il terremoto, poi torneremo a sentirlo sul referendum, che sicuramente sarà uno dei temi, se non il tema centrale questa sera. Intanto, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, tra pochi istanti vi ricordo i titoli principali. Un ascoltatore, a proposito delle Olimpiadi ormai archiviate, dice: ormai le Olimpiadi a Roma appartengono al futuribile, neanche per il momento, insomma, bisogna vedere. Vergogna, dice, la storia sotto era con la penna del disprezzo i nomi dei responsabili. Comunque evidentemente la Giunta Raggi ha ritenuto opportuno fare questa scelta, è comunque legittima. Ora i titoli principali e poi appunto andiamo ad approfondire il primo tema. 300 milioni per la ricostruzione post-sisma, avete appena sentito parlare il Presidente del Consiglio Renzi, poi altri 4 miliardi e mezzo. Oggi Renzi era appunto al cratere, al cuore del terremoto, dove c'è stato il terremoto, non siete soli e vengono risarcite anche le seconde case. Bersani, PD è casa mia, dice, solo l'esercito mi caccia via, la minoranza frena infatti sulla scissione, mentre il costituzionalista Onida impugna a sua volta il testo del referendum. Padova, il ministro dell'economia dice che ci sarà uno stanziamento di 3 miliardi per le pensioni minime e altri interventi, e conferma che la crescita del PIL per il 2017 sarà del 1%. Siria, 5 bambini uccisi dai bombardamenti su una scuola, e Hollande dice fermate le bombe, ma Putin, il presidente russo, annulla la visita a Parigi. Trump scatenato per le presidenziali americane, dice ormai niente più manette, ora faccio a modo mio. Intanto Hillary Clinton è in testa nei sondaggi e avverte gli americani dicendo: io sono l'ultima cosa tra voi e l'apocalisse. Londra invece rassicura gli studenti in vista della Brexit, gli studenti europei, dice le agevolazioni restano. E poi Salvatore Ligresti e la figlia Ionella condannati per Fonsai, falso in bilancio e aggiottaggio, 6 anni a lui e 5 anni e 8 mesi alla figlia Ionella. Ogni 7 secondi una ragazza sotto i 15 anni diventa sposa per forza nel mondo. Questo è il rapporto di Save Children insieme a UNICEF e altre organizzazioni non governative nel Giorno Internazionale delle Bambine. Politica, quindi, il dibattito politico italiano che ormai da tempo è piuttosto inchiodato sul tema del referendum costituzionale, per il quale sapete si vota il 4 dicembre. Il tema è stato anche al centro ieri della direzione nazionale del PD, ovvero l'organo che si occupa di stabilire quale deve essere l'indirizzo politico del partito, o meglio, più che il referendum, ieri al centro della direzione nazionale del PD è stato il confronto sulla frattura all'interno del partito tra maggioranza renziana e minoranza di sinistra, minoranza che minaccia di votare appunto no al referendum. L'ex presidente della Consulta Unida, tra l'altro c'è anche questa notizia, ha fatto ricorso al TAR del Lazio e al Tribunale Civile di Milano impugnando il quesito del referendum, dicendo: in un'unica domanda sono sottoposti all'elettore una pluralità di oggetti eterogenei, e chiede quindi il rinvio alla consulta. E oggi alcuni retroscena attribuiscono alla minoranza del partito la volontà di andare via, però subito frenata da questa frase piuttosto forte di Bersani che avete sentito, che dice: ci vuole l'esercito piuttosto. Lo vogliamo sentire? Invito tutti i commentatori a levarsi dalla testa il tema scissione. Per quel che riguarda me, portarmi fuori da casa mia ci può riuscire, cioè dal mio partito, ci può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito. Con meno non succede. E sentiamo subito allora la pronta risposta della difesa, della ministra della difesa Pinotti. Ma io semmai schiero l'esercito per impedire a Bersani di uscire dal PD, ecco, se proprio è necessario, però essendo che adesso è un po' impegnato in tante missioni internazionali, vediamo di riuscire a fare argine senza bisogno delle forze armate. Ovviamente rispondo con una battuta ad una battuta. Insomma, bisogna quindi dispiegare l'esercito per i tormenti del PD. Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, ciao Barbara. Buonasera a tutti. Intanto, se mi permetti, c'è Renzi che inevitabilmente sta parlando. Dove alla fine c'è la democrazia e dice la regola democratica. Meno male che siamo un partito democratico, uno ogni tanto ci vuole. C'è la democrazia anche in studio, quindi le domande degli altri colleghi. Bianca Berlinguer, prego. Allora, io volevo partire proprio da quella direzione di ieri, perché è sembrato che lei facesse un'apertura, diciamo arrivata forse un po' in ritardo, perché da molto tempo veniva richiesta dalla minoranza del suo partito e non solo, anche da altre forze politiche, di possibile modifica sulla legge elettorale, sull'Italicum. Ma allora, se ho capito bene, lei ieri ha detto: istituiamo una commissione del partito che vada a sondare in giro quali sono le posizioni delle altre forze politiche per arrivare a eventualmente fare delle modifiche, però dopo il 4 dicembre. Allora, le volevo chiedere, una commissione che va a sondare le opinioni degli altri partiti su che cosa, su quale proposta? Perché non c'è nessuna proposta da parte del Partito Democratico, per cui ci si va a confrontare su quale contenuto, sì. E questo fa sì che questa commissione appaia un po', ecco, come una cosa, come dire, fumosa, non con un piano preciso su cui, tipo, per esempio, eliminiamo il ballottaggio. Più sintetica, speravo, Barbara, fosse Bianca Berlinguer, sì, che tra l'altro sì. Qualcuno dice potrebbe essere adesso non più direttrice di Rai 3, potrebbe essere una leader del centrosinistra. Sì, abbiamo già visto in passate stagioni giornalisti che si sono prestati alla politica, poi sono rientrati magari in Rai quando non ce l'hanno fatta. Anche se lei è figlia di cotanto padre, diciamo, no? Sì, è un po' una figura diversa. Senti, a proposito appunto di questa domanda, no? Lui dice, appunto, ha detto la soluzione potrebbe essere questa, facciamo questa commissione, però Bersani oggi ha detto sì, va bene, però va cambiata, e anche Cupero è tornato a dire, Speranza, va cambiato prima l'italicum del referendum, perché poi dopo il referendum si parlerà solo di elezioni e nessuno più tornerà sull'italicum. Allora, il dibattito sulle possibili modifiche alla legge elettorale è surreale ed è tutto interno al PD. Nel senso, punto primo, le altre forze politiche, tutte, dal Movimento 5 Stelle alla Lega, a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, a Cesa dell'UDC, hanno già detto che non parlano, non si siedono ad alcun tavolo a parlare di legge elettorale prima del voto, per cui diciamo che le opposizioni non ci stanno a questo confronto, punto primo. Punto secondo, nel PD e nella stessa minoranza del PD ci stanno ipotesi di modifica dell'Italicum diverse tra di loro, alternative. C'è chi parla per esempio di un Mattarellum 2.0, c'è chi parla invece di un modello greco. Barbara, perdonami, vogliamo provare se finalmente forse sta rispondendo Renzi? Scusami. Il ballottaggio. Però la legge elettorale a lei le interessa molto. No, francamente no. Ci ha messo la fiducia sulla legge elettorale. Guardi, ho messo la fiducia. Non è una cosa che lei considera secondaria rispetto al paese, giustamente. Uno per volta, le rispondo subito. Io ho messo la fiducia sulla legge elettorale come sulle unioni civili, come su tanti altri provvedimenti, perché altrimenti non si sarebbe mai finito di discutere, perché sono 20 anni che continuano a discutere e siccome c'è un meccanismo tra Camera e Senato, Senato e Camera, Camera e Senato, Senato e Camera, che è complicato e ci sono maggioranze diverse, perché non dimentichiamoci che nel 2013 Bersani non ha vinto le elezioni e quindi il PD non ha la maggioranza da solo, siccome c'è questa situazione a un certo punto per decidere devi mettere la fiducia e chiudere la discussione. Se, come io spero, entrerà in vigore la riforma costituzionale nuova, non ci sarà più bisogno di mettere la fiducia in questo modo, perché ci sarà un provvedimento che si chiama voto a data certa e in 70 giorni si potrà dire sì o no, ma almeno si sa come va a finire. Entro nel merito. La legge elettorale non è la cosa più importante per questo Paese. Noi abbiamo messo la fiducia sul ballottaggio perché era una proposta storica che da tanto tempo veniva detta. Oggi, da quando l'abbiamo finalmente realizzata, tutti dicono che qualcuno dice che il ballottaggio rischia di essere antidemocratico. Perché Barbara Fiammeri dice qualcuno potrebbe governare un partito col 25% che non è la maggioranza del Paese, no? Allora, sì, nel senso che appunto si critica questo iper sistema maggioritario, che in realtà poi, ad esempio, il sistema anglosassone, quello in Gran Bretagna, è molto più maggioritario, però non è tanto questo il punto. Secondo me il punto che va messo in evidenza è questo proprio sul ballottaggio, cioè di fatto la cosa che vogliono tutti tranne Renzi è l'eliminazione del ballottaggio, però tutti i sondaggi attuali, senza parlare poi delle ultime dati elettorali, quelli appunto del 2013, ci dicono che se non c'è ballottaggio non c'è una maggioranza possibile alternativa a un governo di coalizione. E quale può essere la coalizione? Quella che abbiamo già visto nel 2013, cioè le larghe intese. Quelle larghe intese che tutti dicono di aborrire, ma che in realtà poi sotto sotto evidentemente molti vogliono. Cioè qui c'è un po' il paradosso, secondo me, che come ieri l'ha detto bene Fassino alla direzione del PD, no? Cioè, accusate Renzi di governare con Verdini, ma Renzi governa con Verdini, cioè con i voti anche di Verdini, perché in realtà al Senato non ha voti, cioè il PD non ha voti. Se eliminiamo il ballottaggio dall'Italicum, inevitabilmente non solo dovrà governare chi non Renzi, probabilmente qualcun altro con Verdini, ma anche con Berlusconi. È una questione di numeri, non se ne esce, perché tutto c'è chi dice, ma la situazione è cambiata, adesso c'è un sistema tripolare perché c'è il Movimento 5 Stelle, ma paradossalmente è proprio un sistema tripolare che ha bisogno del ballottaggio, cioè che ha bisogno di dire su tre poli chi è quello poi che vince, ed è inevitabile che se sono tre poli non possono avere il 40% ciascuno, perché sarebbe il 120%, quindi è inevitabile che questi tre poli sono comunque minoranza in termini assoluti nel paese, chi governerà è minoranza. Il ballottaggio garantisce, io lo condivido ad esempio personalmente, perché secondo me garantisce a uno dei poli di poter governare, cioè di poter fare quello che ha promesso in campagna elettorale, di essere dopo 5 anni, perché siamo una democrazia, essere giudicato sulla base dei risultati. Barbara, l'unica cosa effettivamente, se chiedono delle modifiche all'Italicum sulle quali si possa convergere, forse è più giusto prima del referendum, perché può darsi che dopo il referendum, ma se passa il sì, poi non si mette più mano all'Italia, per quelli che almeno lo vogliono cambiare. Ma no? Il punto è, come si fa a fare delle modifiche a una legge elettorale, ripeto, rispetto alla quale le altre forze politiche non si vogliono confrontare? Cioè, non è che il PD la può fare da solo la legge elettorale, perché al Senato non passerebbe mai, no? Perché il PD non ha la maggioranza da solo. Quindi, se gli altri non vogliono starci a questo tavolo, non è che li puoi prendere con la pistola, e metterli lì. Chiaramente. Non solo, ma ricordo anche che sull'Italicum pende, e pende in modo pesante, una pronuncia della Corte Costituzionale. E tra i punti di questa pronuncia, cioè del ricorso presentato alla Corte Costituzionale, c'è l'accesso al ballottaggio, ovvero se sia sufficiente per un partito avere solo il 20% dei voti per accedere al ballottaggio, oppure, come chiedono i ricorrenti, se sia necessario. Quindi bisognerà aspettare anche questa risposta. Barbara, un'ultima cosa, vedo una notizia che riguarda i 5 Stelle. Escono i consiglieri della giunta Pizzarotti e dicono addio ai 5 Stelle, dopo che è uscito anche Pizzarotti. 18 dei 19 consiglieri della giunta di Parma non si chiameranno più Movimento 5 Stelle, ma Effetto Parma. Secondo te può aver influenzato Effetto Notte su Effetto Parma? Non lo so se è influenzato. Sembra che lì abbiano, cioè mi sembra che la vicenda di Parma sia un po' doveva essere un fiore all'occhiello, perché in realtà a Parma sembra che questo sindaco, io non sono di Parma, non conosco la realtà di Parma, ma pare che abbia governato bene. Piuttosto bene, sembra che abbastanza contenti. Sembra che abbia parecchi consensi. Io non insisto, ma secondo me Effetto Notte su Effetto Parma potrebbe aver avuto qualche incidenza. Comunque, Barbara Fiammeri, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Grazie, ciao, buon lavoro. E ci prendiamo questa pausa, vogliamo sentire un'ultima battuta di Renzi? Allora, sul referendum costituzionale. Ancora hai detto, un altro giornalista, Cerasa del Foglio, direi che allora ci possiamo brevemente lasciare per voi, per le vostre interazioni qui con Effetto Notte, pagina Facebook del programma, oppure 349-238-6666. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog, quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? Pianta, la Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, Roberta Giordano con voi, al posto giusto, anche non tanto al posto giusto, sta ascoltando la radio Vincenzo da Parma, il povero Vincenzo che dice: da 7 giorni ti ascolto dall'ortopedia di Parma, mi sono rotto la rotula sinistra in malo modo. Vincenzo, un abbraccio, vedete, da qualsiasi parte del mondo, ma anche da un ospedale, si ascolta Effetto Notte, un augurio di prontissima guarigione. E c'è Renzi a Politics, abbiamo fatto sentire una parte, abbiamo anche un po' commentato le sue affermazioni e questo dibattito, confronto, scontro soprattutto all'interno del Partito Democratico sul referendum. Adesso stanno parlando i giornalisti, quindi direi di ricordarvi velocemente, prima del prossimo tema, gli argomenti principali. Il terremoto che ha colpito il centro Italia, ha approvato il decreto legge, subito 300 milioni per la ricostruzione, poi 4 miliardi e mezzo tra le misure e il risarcimento integrale per le case colpite. Referendum, il giorno dopo la direzione PD, Bersani smentisce ogni ipotesi di scissione, dice: solo l'esercito può riuscire a cacciarmi, la minoranza frena quindi sulla eventuale uscita, il costituzionalista Onida impugna il referendum. Crescita, il ministro dell'economia Padoan in audizione in Parlamento sulla nota alla DEF, dice: torna a confermare le stime per il PIL, la crescita di più 1% nel 2017. Ne parleremo tra pochissimo. E poi la giornata internazionale delle bambine: tra violenze sessuali, mutilazioni genitali, matrimoni forzati, gravidanze precoci sono le ultime tra gli ultimi. L'ennesimo femminicidio, questa volta a Torino, un uomo litiga con la moglie, la uccide picchiandola e poi va al bar a bere una birra. Maternità surrogata, il Consiglio d'Europa la boccia, non passa il primo rapporto votato dall'Assemblea parlamentare. Fiera di Milano, allarme infiltrazioni, commissariata parte della società. La valutazione complessiva, il saldo di tutti gli impatti descritti è di 0,4 punti percentuali di aumento del PIL. Partendo da uno 0,6% di crescita del quadro tendenziale, si perviene ad una crescita del PIL reale pari all'1,0% del 2017. L'impatto negativo delle riduzioni di imposte e degli aumenti di entrate sul PIL cresce negli anni successivi, in funzione di obiettivi di indebitamento netto più ambiziosi. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao e buonasera a tutti. Allora, abbiamo sentito il ministro dell'economia Padoan che ha ribadito ancora oggi in audizione in Parlamento che ci sarà questa crescita del più 1% del PIL, del prodotto interno lordo italiano, nel 2017. Però di nuovo l'ufficio parlamentare di bilancio boccia queste previsioni economiche. Insomma, quindi anche qui un confronto scontro come sul referendum. Ma insomma sì, anche se è una cosa abbastanza lieve per la verità, perché lo scarto, abbiamo già avuto modo di dirlo, è lo 0,1%, e oggi proprio lo stesso Padoan lo ha detto con parole molto pacate, molto aperturiste, diciamo così, per una soluzione pacifica di questo vulnus istituzionale tra il governo e l'ufficio parlamentare di bilancio. Lo scarto dello 0,1%, perché comunque invece il governo stima, come abbiamo sentito, di poter incrementare il PIL dello 0,4% con le misure espansionistiche previste appunto nella prossima manovra di bilancio. Ecco, traducici questo, leggo misure espansive per 22 miliardi e mezzo, misure espansive. Cosa sì, misure espansive vuol dire provvedimenti che incentivano l'offerta, per così dire, vale a dire gli incentivi, il superammortamento che serve a creare più investimenti, a consentire alle imprese di fare investimenti in macchinari che magari diventano digitali e quindi si fa un upgrading tecnologico delle imprese che cambiano modalità di produzione, creano nuova occupazione, creano più redditi, creano più consumi e quant'altro. Provvedimenti di questo genere, insomma la decontribuzione per i nuovi assunti che probabilmente funzionerà nel mezzogiorno, che dovrebbe creare una nuova spinta alle assunzioni al sud, una serie di investimenti in infrastrutture che sono stati già identificati e potenziati rispetto ai cantieri già aperti che verranno ulteriormente allargati. Ecco, queste sono le misure espansive di cui parla Padoan e che dovrebbero appunto consentire al PIL di crescere un po' di più. Poi dice altri 2 miliardi per politiche vigenti, quindi cose che già... Sì, quelle servono a coprire provvedimenti che già erano in corso, altre forme di incentivazione, cose di questo tipo. Insomma. Quindi pensi che questo dibattito finisca qui a questo punto? Ma io penso che sia finito qui. C'è un momento di protagonismo anche da parte del Parlamento quando arrivano i documenti di politica economica così rilevanti e che ci sta, insomma, che il Presidente della Commissione Bilancio e l'ufficio appunto del parlamentare bilancio facciano un po' sentire la loro voce, però obiettivamente, come ha detto lo stesso Padoan nel corso dell'audizione, sarà molto importante la bollinatura, se così vogliamo chiamarla, da parte dell'UPB, cioè dell'ufficio parlamentare di bilancio, della manovra, non della nota aggiuntiva al DEF, che è una nota di cornice su alcune cifre. Quando ci sarà la manovra, Alberto? La manovra deve arrivare entro fine anno, quindi nei prossimi mesi, insomma, questione tempi lunghi, sì, insomma, infatti. Tempi abbastanza ravvicinati. Grazie Alberto Rioli. Grazie a voi. Buon lavoro Alberto, vice direttore del Sole 24 Ore. E Renzi, sì, continua a parlare, adesso c'è un dibattito anche interno tra giornalisti, direi, eccolo lì. Forse sta facendo una battuta, ride. Mentre fa la domanda Bianca Berlinguer, un attimo, riprego. Mentre fa la domanda Bianca Berlinguer, cominci a vedere un po' di commenti su Facebook. Che visti, dopo... hanno detto che su Facebook, voi invece scrivete su Facebook, pagina Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano ve le ricorda in pochi secondi adesso le notizie più importanti. 300 milioni per la ricostruzione post-sisma, questo ha annunciato oggi Renzi nei luoghi del terremoto, altri 4 miliardi e mezzo poi per risarcire anche le seconde case, integralmente tutte le case che sono state danneggiate. Bersani che dice a proposito del confronto scontro all'interno del PD, il PD è a casa mia, solo l'esercito mi caccia via, fa anche rima. Poi il ministro dell'economia Padoan che è tornato a confermare che per il 2017 ci sarà una crescita del PIL pari al più 1%, ancora non c'è accordo con l'ufficio parlamentare di bilancio. E poi 5 bambini uccisi dai bombardamenti in Siria, bombardamenti su una scuola, e c'è contrasto tra il presidente francese Hollande e Putin per la tregua che non c'è. Putin allora annulla la visita a Parigi prevista per il prossimo 19 ottobre. Trump scatenato per quanto riguarda le presidenziali americane, dice niente più manette per quanto riguarda il suo partito, ora faccio a modo mio. Intanto Hillary Clinton è in testa e dice io sono l'ultima cosa tra voi, nel senso tra voi americani, e l'apocalisse. E poi la notizia di cui parleremo più tardi: ogni 7 secondi una ragazzina sotto i 15 anni diventa sposa per forza nel mondo. L'Europa. Europa 24 notte. La disoccupazione giovanile, per la quale l'Italia vanta un triste record, è un'emergenza però per tutta l'Europa. Per questo Bruxelles tenta di correre ai ripari attraverso il piano European Pact for Youth, e anche in Italia sta partendo il piano nazionale. Il nuovo progetto, a circa 3 anni dal lancio dell'altro piano europeo per l'occupazione giovanile, Garanzia Giovani, su cui risultati la Commissione europea ha da poco diffuso i dati. Sentiamo. In Europa ci sono 7 milioni di giovani che non lavorano, non studiano e non sono in formazione. 2.400 solo in Italia, dove la disoccupazione giovanile è al 38,8%. Per correre ai ripari, CSR Europe e Commissione Europea hanno sottoscritto The European Pact for Youth, un progetto per avvicinare il mondo della scuola a quello dell'impresa. Al piano per l'Italia collabora, tra gli altri, la Fondazione Sodalitas, di cui sentiamo la program manager Elisa Rotta. Quello che vuole fare il piano di azione nazionale è quello di mettere a disposizione un tavolo di incontro tra il mondo delle imprese e il mondo delle istituzioni e delle scuole. Uno degli obiettivi del nostro piano di azione nazionale è quello di fare in modo che queste esperienze siano effettive portatrici di competenze nuove per i giovani, e per farlo dobbiamo creare una cultura sia nel mondo delle imprese che nel mondo della scuola. Ecco, perché questo avvenga ci sono dei tempi, ci sono delle scadenze oppure no? Perché poi il pericolo è che si vada sempre avanti senza poi concretizzare. Noi abbiamo a livello europeo un appuntamento a novembre del 2017 e in quell'occasione rendiconteremo i percorsi fatti sinora. Ci sono degli addentellati con l'altra iniziativa europea per il lavoro dei giovani, Garanzia Giovani, oppure no? Sono due percorsi paralleli? No, assolutamente. Noi stiamo collaborando tra i nostri partner anche più forti di questo progetto, cioè il Ministero del Lavoro attraverso Italia Lavoro, che è appunto una delle agenzie tecniche del Ministero che porta avanti il piano di Garanzia Giovani. Questa partnership con le istituzioni è fondamentale proprio per riuscire a fare sistema. Su Garanzia Giovani, la Commissione europea ha diffuso dei dati molto positivi per l'Italia, ma solo in apparenza. Secondo Bruxelles, il 64% dei ragazzi italiani che ha accettato un'offerta di impiego di formazione attraverso garanziagiovani.gov.it a 6 mesi dalla fine del progetto era di nuovo impiegato, una percentuale superiore alla media europea pari al 35,5%. Il problema è che nel nostro paese oltre il 60% delle offerte di lavoro di Garanzia Giovani è costituito da tirocini, dunque prestazioni lavorative non pagate, e Bruxelles lo sa, come conferma Giulia Rosolen, ricercatrice di ADAPT. Assolutamente sì, tra l'altro la Commissione europea fotografa l'anomalia italiana rispetto a tutti gli altri paesi europei, dimostrando che noi abbiamo reso Garanzia Giovani un catalizzatore di tirocini più che di opportunità effettive, peraltro senza nessun filtro. Basta guardare il portale ministeriale di Garanzia Giovani per rendersi conto che molti tirocini sono opportunità di lavoro mascherate. Il punto adesso è cercare di migliorare e rendere efficace Garanzia Giovani. Sì, tra l'altro la Commissione europea ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di rifinanziare il piano Garanzia Giovani anche per i prossimi 4 anni. Si tratta ora di garantire maggiore efficacia. In che modo? In primo luogo verificare la qualità delle offerte che vengono riconosciute ai nostri giovani, monitorare i percorsi ancorando le misure di Garanzia Giovani a quelli che sono i fabbisogni occupazionali del nostro futuro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Oggi 11 ottobre è la giornata mondiale delle bambine. Perché delle bambine? Perché sono tra gli ultimi del mondo, veramente le ultime vittime di violenze sessuali, di mutilazioni genitali, di matrimoni forzati, gravidanze precoci, divieto di studiare. Ieri vi accennavo il rapporto di Terre des Hommes, oggi i dati sconcertanti di Save the Children: ogni 7 secondi ragazzine sotto i 15 anni sono spose forzate, oltre 1 milione di ragazze diventano madri prima di compiere i 15 anni. Ne parliamo con Marco Guadagnino, portavoce di Save the Children Italia. Buonasera Guadagnino. Buonasera a voi. Quindi dicevo, dati che veramente fanno sgomentare, più di 700 milioni di ragazzini sono sposate prima di 18 anni, quasi 1 miliardo, sono delle cifre folli. Sì, questa classifica che abbiamo stilato effettivamente dà un quadro che è tutt'altro che roseo. Ci sono enormi differenze, ovviamente ci sono paesi dove è veramente complicato essere una bambina o una ragazza, ci sono paesi dove le cose vanno un po' meglio e i paesi dove va peggio ovviamente sono i soliti noti, l'Africa subsahariana, Niger, Chad in primo luogo, e poi ci sono quelli dove le cose vanno un po' meglio, l'Europa del Nord, e anche l'Italia tutto sommato non si piazza male in questa classifica comunque. Anche se prima sentivamo da una nostra collega un servizio in cui diceva che in Italia, per esempio, cosche andranghetose in Calabria, no, sono costrette alcune ragazzine per creare più legame tra i vari clan a sposarsi forzatamente, no? Per quanto riguarda, poi dicevo anche di questi dati che voi avete enumerato, anche delle gravidanze precoci, del fatto che anche nei paesi comunque più sviluppati spessissimo non c'è una situazione paritaria tra coetanei, ragazzine e ragazzini, no? Le bambine spesso costrette anche a lavori di casa, a lavori domestici non pagati, paesi più sviluppati e meno sviluppati. Sì, assolutamente, ci sono casi molto particolari, insomma, gli Stati Uniti che nella classifica sono addirittura 32esimi, dove ci sono dei parametri abbastanza preoccupanti, insomma, la mortalità materna negli Stati Uniti è particolarmente alta, ci sono moltissime adolescenti che partoriscono e quindi sono madri troppo giovani, ci sono poi casi come alcuni paesi dell'Africa subsahariana che invece stanno dando dei risultati molto positivi, pensiamo a Ruanda, è un quadro abbastanza variegato, rimane però un allarme, l'allarme fortissimo che è questo delle bambine che si sposano troppo presto, i numeri sono enormi, addirittura ci sono delle stime che portano a immaginare che ci saranno quasi 1 miliardo spose e bambine nel 2030. Purtroppo, Guadagnino, ci dobbiamo lasciare, ma non lasciamo che questa cosa accada nel dimenticatoio. Sono bambine poi trattate come bambole di gomma da questi uomini più grandi di loro. Grazie Marco Guadagnino e Save the Children. Noi ci riaggiorniamo alle 22.